Perdoni signor Bach, se non ho voglia di studiare, i suoi preludi in me mi fanno sempre disperare. Sono stanco, creda, di impararle fughe in do. A me piace tanto improvvisar con gran calore, ritmo in sol, il ritmo signor Bach, ai nostri dì non è peccato. Se lei vivesse ancora, si sentirebbe elettrizzare. Non s'offenda dunque se del ritmo voglio un poco fare. Perdoni signor Bach, ma non ho voglia di studiare. Giovanni Sebastiano Bach, del contrappunto sei campione, il secondo preludio in me, devo studiar questa lezione. Il ritmo, signor Bach, ai nostri dì non è peccato. Se lei vivesse ancora, si sentirebbe elettrizzare. Perdoni, signor Bach, mi scusi, signor Bach, ma non ho voglia di studiare.